sangue dal cielo hanno ucciso un tramonto. Un cielo vecchio lascia il posto ad uno nuovo, ma si porta dietro i rimpianti di ogni uomo. Sotto le stelle riposa ogni destino. E ti guardo negli occhi, so quando menti o dici il vero. Un padre guarda negli occhi un figlio, ci vede il futuro. Io guardo questo bicchiere pieno e me lo bevo. Mi ci perdo dentro, penso al passato e mi commuovo. Mi aiuterà per ora e domani un giorno nuovo. Sarò più forte dei problemi, sarò più bravo. La vita ieri mi ha chiesto cose che non sapevo. Oggi ho imparato tanto e non lo scordo, te lo giuro. Il fisico, non sono timido, potrei sollevare il mondo con un dito. Eppure io rimango su di esso sempre solo. Fisico, mi dicono, mi sento grande quando invece sono piccolo. Di fronte a un piccolo cinico, dovrei fermarmi ma qualcuno mi spinge quando forse è Dio. Col cappio al collo, in piedi su di uno sgabello barcollo. Non mollo, resto dritto, se mi sporgo troppo poi crollo. Appena l'equilibrio sembra a posto, sotto controllo. Il vento si alza forte, spinge il mio corpo verso il vuoto. Ripeto giorno dopo giorno sempre lo stesso modo. Ripeto il giorno dopo il morto che era dentro al mio forno. Non guardo intorno quando solo sto per vedere un film porno. Non guardo in faccia a nessuno se bevo troppo e sto sotto. Il mese è troppo corto quando tocco il fondo sul conto. Il conto è troppo vuoto quando tutto il mese mi sfondo. Quando a nessuno tranne a me mi trovo a rendere conto. Non mi vergogno e faccio tutto questo alla luce del giorno. Ma io non sono solo, c'ho due figli, una moglie da sogno. Mi chiedo a volte di cos'altro potrei avere bisogno. Mi viene sonno appena sto con loro la sera in soggiorno. Appena c'ho un secondo farò quel che a loro nascondo. Il fisico, non sono timido, potrei sollevare il mondo con un dito. Eppure io rimango su di esso sempre solo. Dico, mi dicono, mi sento grande quando invece sono piccolo. Di fronte a un piccolo cinico, dovrei fermarmi ma qualcuno mi spinge quando forse è Dio. Vivere la vita sul lastrico, sperare un giorno tutto sia più fantastico. Guardare fuori la finestra, scordi per un attimo il presente, vivi in un futuro più magico. Ed io che mi trovo nel mezzo di una vita complicata, cerco di arrangiarmi e guadagnarmi la giornata. Mentre rimango vincolata a terra, gravitazione, mantengo l'equilibrio prima del volo, aquilone.